se Berlusconi dà le dimissioni adesso, risparmia al paese 10 giorni di attesa e anche uno scontro lacerante che ci vorrà un po' di tempo per ricucire. Le aggiungo che anch'io ho il mio pallottoliere che dà risultati non molto diversi dal suo, però è un calcolo che non mi appassiona. Immaginiamo che Berlusconi abbia lui 317 voti, allora che succede? Torna con 317 voti? Mi pare assolutamente impossibile. Bisogna di una maggioranza che ci sia in aula, che si concreti giorno per giorno attraverso un'attività parlamentare. Nessuno può governare con 317 voti in Parlamento. Questa maggioranza è finita. Bisogna prendere atto di un fatto. La svolta del predellino è finita. È andata male, non è riuscita. È fallito il Popolo delle Libertà. Non c'è più. Con la svolta del predellino, Berlusconi ha chiesto al popolo un mandato pieno, assoluto, a fare tutto in qualche modo da solo. E ha garantito di essere capace di organizzare un partito che sarebbe stato capace, che avrebbe governato. È successo che il partito non l'ha organizzato, che non è stato capace di costruire un partito democratico e quindi non è stato capace di governare le forze che aveva riunito nel Popolo delle Libertà. Deve dare le dimissioni assumendosi la responsabilità di questo fallimento. Dopodiché tutte le persone responsabili si trovano, si parlano e cercano il modo di tirar fuori il paese dalla difficoltà.